Ai fratelli giudei sparsi nell'Egitto, salute. I fratelli giudei che sono in Gerusalemme e nella regione della Giudea augurano buona pace. Dio voglia concedervi i suoi benefici e ricordarsi della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe, suoi servi fedeli. Concede a tutti voi volontà di adorarlo e di compiere i suoi desideri con cuore generoso e animo pronto. Vi dia una mente aperta da intendere la sua legge e i suoi comandi e volontà di pace. Esaudisca le vostre preghiere e vi sia propizio e non vi abbandoni nell'ora dell'avversità. Noi qui appunto preghiamo per voi. Quando regnava Demetrio nell'anno 169, noi giudei vi abbiamo scritto: nelle calamità e angosce che ci hanno colpiti in questi anni, da quando Giasone e i suoi partigiani hanno appostato dalla città santa e dal regno, incendiando il portone e versando sangue innocente, noi abbiamo pregato il Signore e siamo stati esauditi. Quindi abbiamo preso l'offerta delle vittime e del fior di farina. Abbiamo acceso le lampade e presentato i pani. Vi scriviamo la presente per esortarvi a celebrare i giorni delle campane nel mese di Casleu. I giudei residenti in Gerusalemme e nella Giudea, il consiglio degli anziani e Giuda ed Aristobulo, maestro del re Tolomeo, appartenente alla stirpe dei sacerdoti consacrati con l'unzione, e ai giudei dimoranti in Egitto, salute e prosperità. Salvati da grandi pericoli per l'intervento di Dio, lo ringraziamo molto per esserci potuti schierare contro il re, perché egli stesso ha respinto le forze schierate contro la santa città. Recatosi in Persia, il loro capo e con lui l'esercito creduto invincibile fu ucciso nel tempio della dea Anania per gli inganni orditi dai sacerdoti di Anania. Con il pretesto di celebrare le nozze con lei, Antioco con i suoi amici si era recato sul posto per prelevarne le immense ricchezze a titolo di dote. Dopo che i sacerdoti del tempio di Anania gliene ebbero mostrate, egli entrò con pochi nel recinto sacro e quelli, chiuso il tempio alle spalle di Antioco e aperto una porta segreta nel soffitto, scagliarono pietre e fulminarono il condottiero e i suoi. Poi, fatteli a pezzi e tagliate loro le teste, le gettarono a quelli di fuori. In tutto sia benedetto il nostro Dio, che ha consegnato alla morte gli empi. Stando noi per celebrare la purificazione del tempio il 25 di Casleu, abbiamo creduto necessario darvi qualche spiegazione, perché anche voi celebrate la festa delle campane e del fuoco, apparso quando Neemia offrì sacrifici dopo la ricostruzione del tempio e dell'altare. Infatti, quando i nostri padri furono deportati in Persia, i sacerdoti fedeli di allora, preso il fuoco dall'altare, lo nascosero con cautela nella cavità di un pozzo che aveva il fondo asciutto e là lo misero al sicuro, in modo che il luogo rimanesse ignoto a tutti. Dopo un buon numero di anni, quando piacque a Dio, Neemia, rimandato dal re di Persia, inviò i discendenti di quei sacerdoti che avevano nascosto il fuoco a farne ricerca. Quando essi ci riferirono che non avevano trovato il fuoco, ma acqua grassa, comandò loro di attingerne e portarne. Poi furono portate le offerte per i sacrifici e Neemia comandò che venisse aspersa con quell'acqua la legna quando vi era sopra. Così fu fatto. E dopo un po' di tempo il sole, che prima era coperto di nubi, cominciò a risplendere e si accese un gran fuoco, con grande meraviglia di tutti. I sacerdoti si posero allora in preghiera, mentre il sacrificio veniva consumato, e con i sacerdoti tutti gli altri. Jonathan intonava, gli altri continuavano il coro insieme a Neemia. La preghiera era formulata in questo modo: Signore, Signore Dio, creatore di tutto, tremendo e potente, giusto e misericordioso, tu solo re e buono, tu solo generoso, tu solo giusto e onnipotente ed eterno, che salvi Israele da ogni male, che hai fatto i nostri padri oggetto di elezione e santificazione. Accetta il sacrificio offerto per Israele tuo popolo, custodisci la tua porzione e santificala. Raccogli i nostri dispersi, libera quelli che sono schiavi in mano ai pagani. Guarda, benigno, i disprezzati e gli oltraggiati. Sappiano i pagani che tu sei il nostro Dio. Punisci quelli che ci opprimono e ci ingiurano con superbia. Concedi al tuo popolo di radicarsi nel tuo luogo santo, come ha detto Mosè. I sacerdoti a loro volta cantavano inni. Poi vennero consumate le vittime del sacrificio e Neemia ordinò che il resto dell'acqua venisse versata sulle pietre più grosse. Fatto questo, si accese una fiamma, la quale tuttavia fu assorbita dal bagliore del fuoco acceso sull'altare. Quando fu divulgato il fatto e fu annunciato al re dei Persiani che nel luogo dove i sacerdoti deportati avevano nascosto il fuoco era comparsa acqua e che i sacerdoti, al seguito di Neemia, avevano con quella purificato le cose necessarie al sacrificio, il re fece cingere il luogo e lo dichiarò sacro dopo aver accertato il fatto. Il re ricevette anche molti doni da quelli che aveva favoriti e ne diede a sua volta. I compagni di Neemia chiamarono questo luogo Neftar, che significa purificazione, ma i più lo chiamano Neftai.